Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Rapiti in Darfur, 5 operatori di Medici Senza Frontiere, c'è anche un medico italiano. Non ci sarà l'assegno per chi perderà il lavoro per la crisi, Senato e Camera bocciano la proposta Franceschini, Sacconi, non vogliamo incentivare i licenziamenti. Addio ai paradisi fiscali, Andorra e Liechtenstein annunciano basta segreto bancario e collaborazione alla lotta all'evasione. 3 anni di carcere, ecco la pena per aver lanciato le scarpe contro George Bush. Bambini senza nome se nasceranno in Italia da genitori clandestini. La proposta nel decreto sicurezza, ma i pediatri dicono no, a costo spiegano di andare contro la legge. In crisi anche il Muppet Show, pronto a licenziare. In Italia ci prova Fiorello a non smentirsi. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, dopo la condanna del presidente del Sudan Bashir per crimini di guerra, l'invito alle organizzazioni umanitarie a lasciare il paese, oggi da quel paese arriva un'altra notizia. Ebbene, sono stati rapiti 5 collaboratori dell'organizzazione di volontariato internazionale Medici Senza Frontiere. E come vi stiamo raccontando, già da un paio d'ore c'è anche un italiano, con lui altri stranieri, un francese, una donna canadese e due locali, due sudanesi, che però sarebbero già liberi. Queste almeno le ultime notizie, ma tutto quello che sta succedendo chiediamo di raccontarcelo a Cristina Carpinelli. Cosa si sa per ora? Allora sì, confermo intanto che i membri sudanesi, come dicevate, 3 operatori dell'equipe di Medici Senza Frontiere rapiti ieri sera sono stati liberati. Ora nelle mani dei sequestratori restano un infermiere canadese, un medico italiano e un coordinatore medico francese che lavorano per la sezione belga di Medici Senza Frontiere. Per i 3 operatori stranieri, questo però quanto dice l'Agenzia delle Nazioni Unite UNAMID con un comunicato interno che è stato inviato via email a tutte le organizzazioni non governative che si trovano in Sudan, sarebbe stato chiesto il riscatto. Non è noto quanto denaro sia stato richiesto. La notizia però viene smentita da Medici Senza Frontiere Italia. Nessuna informazione intanto trapela dalla Farnesina, che per voce del ministro degli esteri Frattini ha chiesto il massimo riservo e il silenzio stampa. La sede italiana di Medici Senza Frontiere fa sapere di essere in stretto contatto con la famiglia del medico rapito e si tratta, e questo ve lo dico, della prima volta che operatori umanitari internazionali vengono rapiti in Darfur. Le sezioni di Medici Senza Frontiere di Francia e Paesi Bassi sono state, come dicevate, espulse dalla regione sudanese la scorsa settimana assieme a un'altra decina di ONG dopo che la Corte Penale Internazionale dell'AIA aveva spiccato un mandato di arresto contro il presidente sudanese Omar al-Bashir per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nella regione. Il governo di Khartoum, sostenendo al-Bashir, ha accusato le ONG di aver collaborato con il tribunale dell'AIA e poco fa la notizia che Khartoum invece starebbe collaborando alla liberazione dei medici di Medici Senza Frontiere. Per ora è tutto. Grazie naturalmente Cristina Carpinelli, e se ce l'auguriamo, insomma, ci saranno delle altre notizie positive soprattutto, ma insomma in ogni caso torneremo a parlare della notizia di apertura. Adesso però veniamo in Italia, andiamo in Parlamento, per la precisione tra Camera e Senato. In discussione c'è la proposta Franceschini per un assegno a chi perde il lavoro. Ci sono novità, che succede? Lo chiediamo a Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Beh, succede che Camera e Senato respingono la mozione Franceschini sull'assegno di disoccupazione. Il segretario del Partito Democratico spiega che il governo non fa nulla per chi soccombe nella crisi e che non si riescono a trovare i soldi perché l'esecutivo ha abbassato l'ICI. Franceschini è intervenuto nell'aula della Camera. Sentiamo. E vorrei che voi diceste a quegli italiani che non siete in condizione di trovare 5 miliardi dopo che li avete buttati dalla finestra con l'eliminazione dell'ICI sui redditi alti e che li avete buttati dalla porta e dalla finestra con il suicidio dell'operazione Air France all'Italia. C'è una differenza tra noi e voi, c'è una differenza di fondo al di là delle singole scelte. Noi pensiamo che nella crisi debbano scattare meccanismi di solidarietà nelle comunità. Voi pensate che nella crisi sia inevitabile che qualcuno soccomba e qualcuno si salvi. Noi sappiamo che il paese si salva tutto assieme o non si salva nessuno. ma il governo risponde no alla proposta. Per il ministro del welfare Maurizio Sacconi, i sussidi di disoccupazione incentivano licenziamenti che il governo non vuole produrre, il quadro economico poi non è così fosco come lo dipinge il Partito Democratico, il tasso di occupazione sarà a fine 2008 intorno al 59%, superiore di quello di inizio decennio. Ma sentiamo il ministro Sacconi. Molti di coloro che avevano esasperato le previsioni negative si troveranno ad essere smentiti, perché con ogni probabilità avremo una situazione di mantenimento del livello del numero di occupati al di sopra dei 23 milioni e il tasso di occupazione si rivelerà sostanzialmente stabile, seppure con una composizione leggermente mutata, nel senso che purtroppo peggiora l'andamento nel Mezzogiorno. In questa fase, precisa Sacconi, non è affrontabile la riforma delle pensioni. Sulla cassa integrazione Sacconi rivela che anche le previsioni del 2009 sono comunque molto lontane rispetto ai picchi raggiunti in Italia negli anni 80. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. No dunque alla mozione Franceschini, intanto però sulla crisi parla nuovamente anche la Banca Centrale Europea. Nel suo bollettino mensile l'economia mondiale sta attraversando la più grave recessione da molti decenni, scrive, ne parleremo più avanti, perché in Italia arriva anche un altro dato. Il PIL italiano nel 2008 è sceso dell'1%, dato confermato dall'Istat, che spiega che il cosiddetto effetto trascinamento sul prossimo anno, vale a dire il dato che si avrebbe qualora la crescita 2009 fosse nulla, è dell'1,9%. Non solo, nel quarto trimestre dell'anno il PIL è sceso del 2,9% su base annua, mentre si prevedeva un meno 2,6%, dati che non si vedeva dalla fine degli anni Ottanta. Insomma, numeri, sempre numeri e sempre col segno meno davanti. Luigi Lazzi Gazzini, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come dobbiamo prendere queste cifre? Quanto ci devono preoccupare, Luigi? Beh, guarda, io ti devo dire, sono vecchio, ho visto molte crisi, posso dire che c'è un momento, e forse è quello che stiamo vivendo, in cui la crisi tocca il suo punto più basso e si ha una sensazione psicologica molto sgradevole, cioè quasi di non vederne la fine. Ecco, invece la fine si vedrà, come tutte le cose di questo mondo, positive e anche negative, e di conseguenza questi dati non fanno che confermare un 2009 preoccupante, certamente, ma questo lo sapevamo. È un 2009 preoccupante, che sarà molto probabilmente peggiore di quella recessione stimata dal governo nel meno 2% reale, ancora negli ultimissimi dati forniti. Insomma, possiamo trovare naturalmente tra le pieghe delle cifre anche qualcosa con cui consolarci. C'è un'altra notizia che riguarda l'economia e il fisco soprattutto. Novità sul fronte dei paradisi fiscali, perché Andorra ha detto che abolirà il segreto bancario entro il 2009, il governo lo ha detto, e invece il Liechtenstein, sempre in materia fiscale, ha annunciato di riconoscere gli standard dell'OCSE, insomma più collaborazione, accordi bilaterali finalizzati alla lotta all'evasione fiscale. Luigi, insomma, potrebbe cambiare qualcosa anche per la lotta all'evasione fiscale dall'Italia? Cosa potrebbe cambiare per chi ha i soldi in questi paradisi? Beh, non possiamo dimenticare che Tremonti effettivamente è stato un antesignano in questo, accolto già nel 2001 col famoso scudo fiscale che ha permesso di far rientrare in Italia con un modesto onere dei capitali detenuti irregolarmente all'estero, e in qualche modo, ti dico, aveva già capito, questo va detto, va riconosciuto, che la linea di tendenza è un po' questa, insomma, questi paradisi fiscali sono sempre meno paradisiaci e sempre più i grandi paesi che soffrono di questa uscita irregolare vogliono che questi soldi tornino a casa. Grazie Luigi Lazzi Gazzini, inviato del Sole 24 Ore. E chi senz'altro, insomma, non deve preoccuparsi per la crisi sono i grandi paperoni del mondo. Sentiamo che cosa è cambiato nella vetta della classifica stilata come ogni anno da Forbes. Ricchi lo sono e come, ma in tempi di crisi anche loro lo sono un po' meno. In media, i 224 paperoni del mondo hanno una ricchezza di 3 miliardi di dollari, il 23% in meno dell'anno scorso. In cima alla lista un ritorno, quello di Bill Gates, che con i suoi 40 miliardi di dollari supera il numero uno dello scorso anno, Warren Buffett, 37 miliardi. Al terzo posto il messicano nel business delle telecomunicazioni Carlos Slim, 35 miliardi. Subito dopo il numero uno della Oracle, Lawrence Ellison, Ingvar Kamprad de Mobili Ikea. Al decimo posto lo spagnolo Amancio Ortega della catena di negozi di abbigliamento low cost Zara. Il primo italiano a comparire nella classifica dei più ricchi è Michele Ferrero, al 40° posto, il papà, onore al merito, di Nutella e Ferrero Rocher. Secondo degli italiani, 70° nella classifica mondiale, Silvio Berlusconi and Family. Subito dopo, 71°, Leonardo Del Vecchio di Luxottica. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. E come vi abbiamo detto, della crisi torneremo a parlare più avanti con i dati della BCE, ma anche con i conti dell'Enel. Siamo invece alla pagina della cronaca con la nuova svolta a Roma, perché già scagionato dalla violenza della Caffarella, il rumeno Carol Rax potrebbe non c'entrare nulla anche nello stupro di Prima Valle. Ancora il DNA. Dopo essere stato scagionato dall'accusa di essere l'autore dello stupro della Caffarella insieme al biondino Loyos, per Carol Rax si indebolisce anche quella per lo stupro di Prima Valle. Sul corpo e sugli abiti della 41enne assalita in Viale Andersen a Roma lo scorso 21 gennaio, gli specialisti della polizia scientifica avrebbero infatti trovato tracce biologiche non riconducibili all'immigrato, ma solo a un altro uomo con cui la donna risulta aver avuto un rapporto consenziente. Ora si attendono conferme da ulteriori verifiche, ma se il collegamento tra Rax e la donna fosse escluso, l'insieme di accuse che ha permesso di inchiodare il rumeno e di tenerlo in carcere finora cadrebbe come un castello di carte. Resta, è vero, il riconoscimento formale di Rax da parte della vittima, ma la stessa donna ha detto di non essere sicura al 100%. Sia Rax che Loyos sono attualmente a Regina Coeli. Ieri Rax ha ricevuto la visita del console rumeno e, come Loyos, ha rinunciato all'ora d'aria. La libertà per lui potrebbe essere vicina. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Doppio KO ieri sera per Inter e Roma nel scontro con gli inglesi in Champions League, così dopo l'eliminazione della Juve adesso ad andare avanti sono solo le inglesi. Sentiamo. In molti, noi compresi, l'avevamo definito un Italian job, un lavoro, un affare da italiani, dando per scontato che avremmo comunque trovato il modo giusto per cucinarci a puntino le big del calcio inglese. Beh, la due giorni del ritorno degli ottavi di Champions ci lascia col gusto amaro di un Italian flop, un fiasco calcistico tutto tricolore. Come un anno fa, le corazzate anglosassoni vanno avanti. Inter, Roma e Juventus fanno i conti con rimpianti, infortuni, processi e malasorte. Chi crede a gatti neri e corni scacciaguai maledice i pali di Ibrahimovic e Adriano all'Old Trafford. Ma il Manchester United, che vince 2-0 e sbatte fuori dall'Europa l'Inter di quel Mourinho passato da special a normal one in una notte, ha pienamente meritato la qualificazione. E a poco valgono le lacrime giallorosse per gli errori dal dischetto di Vucinic e Tonetto all'Olimpico contro l'Arsenal. Con una decina di infortunati e dopo un'annata a singhiozzo, già è stato un miracolo arrivarci ai rigori. Alla fine l'immagine che resta negli occhi è il tutore stretto attorno al ginocchio destro di Capitan Totti, che prova a trascinare i suoi verso un impossibile sogno europeo. Emblema del calcio nostrano che, zoppicante, viene respinto ancora una volta alla periferia del football che conta. Da oggi si ricomincerà a parlare di moviole, arbitri e fuorigioco, in attesa di quella finale di Roma, dove ad alzare al cielo la Champions saranno però inglesi, tedeschi, spagnoli o portoghesi. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:18 minuti, le notizie di oggi extra large. Mauro Dascanio, secondo quanto si apprende, il medico italiano rapito in Darfur, l'uomo è di origine veronese. Sono 5 i collaboratori dell'organizzazione Medici Senza Frontiere rapiti in Darfur. 2 sudanesi sarebbero già stati liberati, per gli altri invece è stato chiesto un riscatto. Il Senato e la Camera bocciano la proposta Franceschini per un assegno per chi perderà il lavoro per la crisi. Il ministro del welfare Sacconi. In una fase di questo tipo diventa oggettivamente, al di là probabilmente dell'intenzione dei proponenti, incentivi al licenziamento, incentivi al rattrappimento strutturale, proprio quello che noi non vogliamo produrre. E così ribatte Franceschini. Franceschini ribatte, la nostra proposta andava in un'altra direzione, lo sentiremo magari più avanti. Vicina a una svolta, vicini a una svolta i paradisi fiscali. Andorra ha annunciato infatti che abolirà il segreto bancario entro il prossimo novembre e anche il Liechtenstein ha fatto sapere di riconoscere gli standard dell'OCSE in materia di fisco, si è detto pronto a concludere accordi con gli altri paesi per la lotta all'evasione fiscale. Ricordate il giornalista iracheno che lanciò le scarpe contro George Bush? Per quel gesto è stato oggi condannato a 3 anni di carcere. In prigione già dallo scorso 14 dicembre, rischiava una condanna fino a 15 anni. Nel pacchetto sicurezza spunta una norma in base alla quale neonati stranieri di genitori privi di permesso di soggiorno non vengono registrati all'anagrafe. In sostanza non esisteranno negli archivi. Tra poco ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Nazionale Pediatri: andremo anche contro la legge. In crisi anche il Muppet Show, pronto a licenziare. In Italia ci prova Fiorello a non smentirsi. Oggi ha presentato il suo show. E dunque, come dicevamo, ha fatto discutere qualche tempo fa la norma contenuta nel pacchetto sicurezza che rende nuovamente possibile per i medici dei pronto soccorsi denunciare gli immigrati clandestini. Ce n'è un'altra però che ha aperto un altro dibattito. La misura, se approvata, farà sì che i neonati stranieri di genitori privi di permesso di soggiorno non vengano registrati all'anagrafe. In sostanza non esisteranno negli archivi, una sospensione quindi del cosiddetto ius solis. Abbiamo chiesto allora un parere al presidente dell'associazione nazionale pediatri Giuseppe Mele, che lo sentirete annuncia battaglia. Un decreto del genere, le conseguenze sono devastanti per i bambini, che diventeranno sempre più invisibili. Cioè, noi avremo la possibilità sicuramente in un futuro prossimo di bambini che non saranno mai registrati e che saranno invisibili per, in tutti i sensi, con tutte le conseguenze, perché non sarà offerto loro le opportunità che invece gli altri bambini in Italia possono avere, quella di una medicina non solo di attesa, ma è soprattutto una medicina di iniziativa, quella che normalmente la pediatria mette in atto. È in questo senso che noi stiamo in qualche modo immaginando di creare, o meglio di proporre, una cosiddetta soluzione creativa. Mi spiego, è chiaro che noi dobbiamo entrare nel termine appunto legale, ma lei sa che il bambino nato in Italia da genitori apolidi, ossia senza cittadinanza, in pratica possono rimanere. E allora, in attesa dei tempi migliori e considerate le tante proprio situazioni di clandestinità legate alla condizione dei profughi che non hanno ottenuto lo status di rifugiato, ma anche a tante condizioni di clandestinità e irregolarità, legate a situazioni che fanno pensare impossibile il rientro in patria o indesiderato il mantenimento della propria cittadinanza di origine, potrebbe essere suggerito ai futuri genitori in condizioni di clandestinità di esercitare il proprio diritto alla rinuncia della cittadinanza di origine. La nuova condizione di apolide li sottrarrebbe al reato di clandestinità, li porrebbe sotto la tutela dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concretizzerebbe il diritto dei loro neonati alla cittadinanza italiana per nascita, ma soprattutto darebbe loro tutte le opportunità che tutti gli altri bambini hanno. Questo è dunque il presidente dell'Associazione Nazionale Pediatri Giuseppe Mele ai nostri microfoni. Adesso invece andiamo a Trieste, dove si apre la conferenza sulla droga, non senza qualche polemica. Avvio tra le polemiche per la 5ª conferenza nazionale sulle politiche antidroga, partita stamattina a Trieste. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi è stato contestato dalla rete operatori Friuli Venezia Giulia, che ha definito dannosa la legge Fini Giovanardi. E a Verona, aderenti ai centri sociali del Veneto hanno occupato il CERT, protestando contro l'impostazione proibizionista della conferenza. Il sottosegretario, con delega alle politiche antidroga, ha risposto ricordando come il consumo di stupefacenti sia crollato nell'ultimo secolo e ha auspicato che dalla 3 giorni emerga invece il diritto di libertà dalla droga. Un appello alle istituzioni è stato inviato anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che sollecita il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo. A Trieste invece, tra i 1200 operatori accreditati, non ci sarà Andrea Muccioli alla guida della comunità di San Patrignano. Critica anche Livia Turco, parlamentare PD, ex ministro della Salute, che ha bocciato la proposta del governo di applicare la riduzione del danno alle malattie legate all'uso di sostanze stupefacenti. Sul palco del Teatro Verdi di Trieste c'era invece il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, che ha illustrato i grandi risultati della lotta alla droga, ma ha pure invitato a rafforzarla. Andrea Saulo, GR24, Il Sole 24 Ore, Trieste. La crisi colpisce anche la televisione e anche i programmi per bambini. Negli Stati Uniti a farne le spese ora è una casa di produzione no profit che realizza, sentite, tra l'altro, uno show famosissimo. La recessione ha colpito anche Sesame Street, il programma televisivo statunitense per bambini, famoso in tutto il mondo per la partecipazione dei Muppet. La casa di Elmo ha infatti annunciato la riduzione di un quinto dei suoi 355 dipendenti. I Muppet sono stati creati da Jim Henson e dalla società da lui fondata, il Jim Henson Workshop, ora curato dal figlio Brian. I personaggini animati sono stati protagonisti di due celebri trasmissioni televisive, il Muppet Show e Sesame Street, cioè da noi Sesamo Apriti. Nel 2004 la Walt Disney ha acquistato quasi tutti i Muppet, ma alcuni appartengono a Sesame Workshop, organizzazione no profit che da 41 anni produce programmi TV, giocattoli, libri e programmi online. Ed è proprio Sesame Workshop a far sapere ora di non essere immune alle sfide senza precedenti dell'attuale situazione economica. L'organizzazione ha sempre fatto grande affidamento sulle donazioni venute da Wall Street, da colossi come Bear Stearns e Merrill Lynch. Sesame Workshop ribadisce la missione di aiutare i bambini a sviluppare il proprio potenziale, qui e in tutto il mondo, ma aggiunge: dovremo operare con meno risorse per poter rispettare le nostre priorità strategiche. Nel 2008 le entrate sono state pari a 145 milioni di dollari, a fronte di 141 di spese di gestione. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E vabbè, veniamo invece dalle parti di casa nostra, dove invece c'è qualcuno che riparte. Proprio oggi è Fiorello che ha presentato il suo nuovo show. Sentiamo. Io sono senza parole, non mi aspettavo, perché sai, dove è la conferenza stampa? All'Ara Pacis, quindi pensavo che tutto quello banco me la dai, antico, invece no. È bellissimo. Dal 1 aprile, e non è uno scherzo, Rosario Fiorello debutta con il suo Fiorello Show al Teatro Tenda di Roma. E dal 2 aprile lo spettacolo sarà in onda per 4 sere alla settimana sul canale 109 di Sky, che è stato rinominato Sky 1. Lo presenta così Tom Mockridge, amministratore delegato di Sky. Fiorello è un mattatore in foro classe assoluto. Foro classe bella. Foro classe. Sì. È molto, sempre molto romana, antica, foro. Le Fiorello News, però, cioè delle battute di satira sulle notizie calde, si introfuleranno tutto il giorno nel TG24 di Sky. Fiorello, da aprile, sarà infatti un telegiornalista very very active. Daniela Binello, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13, 32 minuti e 50 secondi, le notizie di oggi extra large. Stanno bene i tre rapiti in Darfur, secondo il Ministero degli Esteri del Sudan. Intanto si apprende che è Mauro Dascanio, l'italiano, il medico italiano rapito insieme agli altri quattro operatori dell'organizzazione Medici Senza Frontiere. I due sudanesi sarebbero già stati liberati, per gli altri invece è stato chiesto un riscatto. Bocciata al Senato e alla Camera la proposta Franceschini per un assegno per chi perderà il lavoro per la crisi. Il ministro del Welfare Sacconi. In una fase di questo tipo diventa oggettivamente, al di là probabilmente dell'intenzione dei proponenti, incentivi al licenziamento, incentivi al rattrappimento strutturale, proprio quello che noi non vogliamo produrre. E così Franceschini. E vorrei che voi diceste a quegli italiani che non siete in condizione di trovare 5 miliardi dopo che li avete buttati dalla finestra con l'eliminazione dell'ICI sui redditi alti e che li avete buttati dalla porta e dalla finestra con il suicidio dell'operazione Air France all'Italia. E nel 2008 il PIL italiano ha segnato una flessione dell'1%, così dicono i dati dell'Istat, il calo maggiore dal 1975. Secondo la Banca Centrale Europea, intanto, il rapporto deficit-PIL nel 2009-2010 in Italia supererà la soglia limite del 3%. Vicino una svolta per i paradisi fiscali, Andorra ha annunciato che abolirà il segreto bancario entro il prossimo novembre. Anche il Liechtenstein ha fatto sapere di riconoscere gli standard dell'OCSE e si è detto pronto a concludere accordi per la lotta all'evasione fiscale. Enel vara un aumento di capitale da 8 miliardi di euro. Il Ministero del Tesoro ha manifestato interesse ad aderire. Queste le novità del piano industriale del gruppo energetico. Il giornalista iracheno che lanciò le scarpe contro George Bush per quel gesto è stato oggi condannato. 3 anni di carcere, ne rischiava fino a 15. Un uomo di 30 anni, omosessuale, seguito dai servizi sociali del comune di Pordenone per una lieve disabilità mentale, è stato aggredito a calci e a pugni da 3 persone poi arrestate. Così racconta la polizia. Esistono più persone che hanno assistito a piccoli pezzi della scena e quindi c'è stata una ricostruzione delle testimonianze secondo la quale praticamente l'episodio ha avuto una conclusione, un inizio e una conclusione precisa. Lo sci italiano esulta in Coppa del Mondo. Nel supergigante maschile vince Werner Hell, tra gli azzurri nei primi 5, tra le donne seconda la Fanchini. Siamo ai dati economici naturalmente di giornata, che arrivano di minuto in minuto e purtroppo sono tutti positivi. Negativi, come dicevamo prima, la disoccupazione salirà al 10% in Europa secondo le autorità europee, e invece in America i sussidi di disoccupazione sono in netto rialzo a quota 654.000 e secondo il primo flash delle agenzie anche al di sopra delle attese. Ultimissime notizie queste, un quadro un po' più completo l'ha dato questa mattina il bollettino mensile della Banca Centrale Europea. Tutti aspettavano per capire se c'erano indicazioni sul quadro economico e soprattutto sul futuro dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse. Ecco, sentiamo cosa scrive la BCE. La Banca Centrale Europea tiene la porta aperta a nuovi tagli del costo del denaro nella zona euro, ma per ora non prende impegni. Nel suo bollettino mensile di marzo, l'Istituto Monetario afferma che non vi sono rischi deflazionistici nell'Unione, ma ammette che l'inflazione potrebbe essere temporaneamente negativa a metà anno per un effetto confronto con il 2008. Sui rischi di deflazione non tutti gli economisti di mercato sono così ottimisti, tanto che molti si aspettano ulteriori allentamenti monetari da parte della BCE nei prossimi mesi. Per ora il presidente Jean-Claude Trichet è rimasto cauto. Si è limitato a dire che il livello di 1,5%, raggiunto con la riduzione del costo del denaro la settimana scorsa, potrebbe non essere il livello più basso dei tassi di interesse nella zona euro. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E ora ci occupiamo dell'Enel, che vara un aumento di capitale da 8 miliardi di euro da completare entro la fine del 2009. Il Ministero del Tesoro, tra l'altro, ha manifestato l'interesse ad aderire. Queste alcune delle novità del piano industriale presentato quest'oggi. A seguirlo c'era il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un gruppo, quello dell'Enel, che nonostante la crisi economica chiuderà il 2009 con risultati in crescita. Nella nota di bilancio si legge che il consolidamento e l'integrazione delle attività internazionali, l'ottimizzazione del portafoglio, nonché le attività di sviluppo e le azioni di efficienza previste produrranno effetti positivi anche quest'anno. Anno il 2009 in cui si realizzerà l'aumento di capitale da 8 miliardi di euro e per il quale il Ministero del Tesoro ha già manifestato l'interesse ad aderire, ma su questo ascoltiamo l'amministratore delegato di Enel, Fulvio Conti. Noi chiediamo un aumento di capitale perché abbiamo fatto e stiamo completando una grande espansione internazionale e ci sembra doveroso far ricorso all'aumento di capitale per promuovere la nostra azienda, che continua a crescere con risultati che crescono e che garantisce comunque un rendimento a chi sottoscrive le azioni tra i più elevati in Italia e in Europa. E quindi siamo confidenti che questo aumento di capitale sia il passo per il rilancio di una grande azienda che si promuove come leader nel settore dell'energia, che con la dimensione di scala accresce la propria capacità di controllare i costi e che alla fine farà beneficiare tutti i consumatori. Altra novità, quella relativa ai dividendi. Con giugno tramonterà la cedola tradizionale. Il nuovo programma prevede una quota fissa destinata al pagamento dei dividendi pari al 60% dell'utile ordinario a partire dall'esercizio 2009. Via libera infine ad un piano di dismissioni da 10 miliardi, obiettivo ridurre il debito nel prossimo biennio. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Meglietta. E c'è qualcun altro che prova a buttarsi negli affari in Italia? Nel commercio. Nel commercio. Se passate dal centro commerciale di Orio Center a Bergamo, da oggi vi potrà capitare di imbattervi in un negozio un po' particolare, un punto vendita dell'esercito italiano. Colonnello Mario Sumatra, buongiorno. Buongiorno. Cosa avete deciso di vendere? Cosa vende l'esercito? Allora, quello che inauguriamo oggi all'Orio Center è un negozio di abbigliamento e rientra in un progetto di collaborazione con l'azienda Officine della Moda per la commercializzazione di una linea di abbigliamento griffata esercito italiano. Quindi sarà possibile trovare maglie, giubbotti, pantaloni e capi di abbigliamento. Però la particolarità è che questi sono arricchiti da semi e singoli ufficiali dell'esercito italiano. Immaginiamo che sarà una linea anche un po' dedicata ai giovani? Sì, una linea principalmente dedicata ai giovani, una linea di sport, quindi principalmente dedicata ai giovani, però non è esclusivamente per i giovani. Cioè anche per i più adulti. Ma è un po' anche un po' una strategia di marketing, immagino, dell'esercito per cercare di comunicare anche un po' attraverso la vendita. Che cosa, colonnello? Beh, noi con l'apertura di questo negozio e con altre iniziative vogliamo accrescere quello che è il capitale d'immagine dell'esercito italiano. E questo è un modo moderno per avvicinare i giovani al mondo militare e a quello dell'esercito italiano in particolare. E noi vogliamo cercare di soddisfare in maniera giovane e innovativa quel bisogno di conoscenza che c'è, che abbiamo riscontrato verso il mondo militare. E se poi tra i giovani che si avvicinano ai prodotti griffati dell'esercito italiano qualcuno decidesse anche di voler far parte di una squadra giovane, dinamica e moderna, l'esercito italiano c'è. Colonnello, un po' tutti stanno cercando di raccogliere soldi in ogni modo in questo periodo. Immagino che non sia per questo. Che ne farete dei soldi che ricaverete? No, noi allora in queste collaborazioni, siccome noi non abbiamo finalità di lucro, questi che è comunque in partnership con l'Officina della Moda, verrà poi utilizzato per progetti di interesse della Forza Armata e anche per il benessere e per l'assistenza al personale militare. E grazie allora al colonnello Mario Sumatra che ci ha, insomma, raccontato, spiegato un po' di dettagli riguardo a questa che comunque resta una novità per il nostro paese. Ricordiamo, 3 punti vendita, di cui uno nel centro commerciale di Orio Center a Bergamo, punti vendita dell'esercito. Grazie al colonnello Mario Sumatra. Grazie. Una buona notizia cerchiamo ora di darvela e arriva dallo sci azzurro. Per gli italiani impegnati in Svezia arrivano i risultati. Dario Puppo, che succede? Com'è andata la mattina? Abbiamo dovuto aspettare praticamente la fine della stagione per avere grandi risultati, addirittura 3 podi nella stessa giornata. È vero che i mondiali della Val d'Isère non sono andati benissimo, ma oggi c'è da festeggiare anche parecchio. Nadia Franchini era in corsa per la Coppa di specialità nel Super G, però con questa Lindsay Vonn non c'è stato assolutamente da fare. L'americana ha vinto con 8 centesimi su Nadia Franchini, che quando è scesa con il 18 ha fatto segnare il miglior tempo e ha preceduto Maria Risch, che si è piazzata al terzo posto. Nadia Franchini ottiene il 5° podio stagionale e soprattutto dimostra di essere davvero molto costante in questa disciplina. Vonn, che ha vinto le ultime 4 gare di Coppa del Mondo e se si aggiunge anche il Mondiale sono 5 in questa specialità, si è dimostrata davvero troppo forte. Però l'Italia, ricordiamo, che ha conquistato anche il primo posto nella mattinata con Hellel, per la seconda volta vince in Super G e anche lui arriva secondo nella specialità come proprio Nadia Franchini. E poi addirittura c'è stato anche in Roper terzo nella gara di questa mattina con Peter Phil quinto, per cui grandi notizie dalle finali di Coppa del Mondo di ore, e non è ancora finita perché poi domani ci sono i giganti e sabato anche lo slalom in cui possiamo raccogliere ancora vittorie. Ecco, quali sono le aspettative, insomma, visto che dicevi siamo un po' agli sgoccioli anche di questa stagione sciistica per i colori azzurri, Dario? Ma direi che le aspettative sono quelle di far bene nello slalom maschile, dove c'è Razzoli, che è il nuovo fenomeno dello sci azzurro, che è molto adatto per caratteristiche alla pista svedese, quindi lì possiamo tranquillamente puntare sul podio. In gigante è la disciplina, parlo del maschile, in cui abbiamo sofferto di più perché è l'unica nella quale non è arrivata la vittoria delle 4 principali al maschile, ma poi c'è comunque anche Denise Carbon, che nella gara di domani al femminile non c'è dubbio può fare molto bene, può magari arrivare a quel successo che non ha ottenuto in questa stagione. Ricordiamo che ha vinto lei la Coppa di specialità in gigante la passata stagione. E direi che sono buoni propositi per la prossima stagione, che sappiamo essere molto importante perché è quella delle Olimpiadi, e comunque è un dato nuovo quello di raccogliere così tanti risultati e podi nella velocità come è successo in questa stagione. Per cui c'è solo da essere contenti per quello che verrà nelle prossime stagioni, perché sono convinto che questa squadra maschile di velocità farà davvero molto bene. Incrociamo le dita. Grazie a Dario Puppo. C'è una notizia dell'ultima ora. Non ci saranno disagi nei trasporti sabato, domenica, lunedì prossimo. Il ministro Matteoli ha deciso di differire le scioperi di treni e aerei, erano previsti il 14, 15 e 16 di marzo. 13:46 minuti, le notizie di oggi. Stanno bene i tre operatori rapiti in Sudan, secondo quanto riferisce il Ministero degli Esteri rapiti in Darfur, secondo quanto riferisce il Ministro degli Esteri del Sudan. Il medico italiano, a quanto si apprende, Mauro Dascanio, d'origine veronese, per loro sarebbe stato chiesto un riscatto. No da Camere e Senato alla proposta Franceschini per un assegno per chi perderà il lavoro per questa crisi. Sacconi, non vogliamo incentivare i licenziamenti. Addio ai paradisi fiscali, Andorra e Liechtenstein annunciano basta con il segreto bancario e annunciano anche collaborazione per la lotta all'evasione fiscale. 3 anni di carcere, ecco la pena per aver lanciato le scarpe contro George Bush. E allora ripartiamo proprio dalla storia della scarpa, che è stata per un certo periodo la scarpa più famosa al mondo e soprattutto del suo lanciatore. Andiamo in Iraq. È stato condannato a passare 3 anni in carcere il giovane giornalista iracheno che lo scorso dicembre lanciò le sue scarpe contro l'ex presidente statunitense George Bush. Nel tentativo di invalidare l'accusa di aggressione ad un capo di Stato straniero, il suo difensore aveva sostenuto che la visita di Bush era stata a sorpresa e non ufficiale, riuscendo però solo a rinviare la scontata sentenza. Tenendosi ben stretto il ruolo di eroe attribuitogli da molti suoi connazionali, alla corte che lo giudicava, Montazer al-Zeidi ha detto di non sentirsi colpevole e che il gesto che gli era venuto spontaneo lo avrebbe fatto qualsiasi altro iracheno al suo posto. Adif Atahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E c'è un aggiornamento da Berlino. Ieri vi abbiamo raccontato della strage nella scuola nella cittadina vicino a Stoccarda, nel sud-ovest della Germania. Ebbene, l'autore, un ragazzo di 17 anni, aveva probabilmente annunciato il suo gesto su una chat online durante la notte tra martedì e mercoledì, poche ore prima di compiere il massacro. Così ha detto questa mattina il ministro dell'interno tedesco in una conferenza stampa. Il ragazzo, altra notizia di oggi, probabilmente aveva problemi di depressione. Ma indubbio che questo è il tema in primo piano non solo in Italia, ma ovviamente anche in Germania. Eh sì, immagino proprio di sì. Giulia Crivelli, per dare la nostra solita occhiata ai giornali stranieri. Cominciamo, ciao Giulia. Buongiorno. Dalla Germania? Sì, le foto sono sulle prime pagine di tutti i giornali, sono naturalmente quelle scattate subito dopo la strage, quindi con l'arrivo della polizia, il via vai delle ambulanze e anche alcune foto con i corpi delle soprattutto delle ragazze assassinate coperte. Gli angoli da cui si può affrontare questa vicenda sono tantissimi, oltre naturalmente a quello della cronaca, che poi vediamo è sempre in aggiornamento, come diceva Anna. Per esempio la Süddeutsche Zeitung si concentra sul fatto che il titolo lo dice già, che erano pericolosamente vicini alla normalità. Adesso si potrà anche dire che questo ragazzo era depresso, ma anche la definizione di depresso per un adolescente è molto difficile da dare, perché l'adolescenza è forse il periodo più difficile in assoluto. Sentirsi falliti quando si è adolescenti forse è una cosa che capita, o comunque come si fa a distinguere il vero depresso semplicemente dall'adolescente un po' normalmente problematico, ecco. L'altra questione è, adesso, visto che è stato così facile introdursi in una scuola con un'arma, si chiede la FATS, dobbiamo trasformare le scuole in fortezze, quindi fare come succede per esempio in molte città americane, mettere i metal detector all'entrata delle scuole, va bene o è addirittura controproducente? Ricorda a tutti che esistono le armi e la violenza, sono tutte naturalmente domande aperte. Certo, è un dibattito che in qualche modo si sta aprendo un po' lentamente, ma anche sicuramente nel nostro paese. Francia e Germania, della Germania abbiamo parlato, sono un po' i nostri fari. Ieri in Francia Sarkozy ha fatto un annuncio importante, storico per certi aspetti atteso, ma insomma parlacene Giulia. Sì, come dicevi tu, anche questa è una mossa che in alcuni si aspettavano, soprattutto all'interno del suo partito. Sarkozy ha annunciato il rientro nella Francia nel cosiddetto comando integrato della NATO. Erano decenni che la Francia era assente, per molti, soprattutto per, insomma, sappiamo, i francesi sono in generale molto nazionalisti, è una decisione buona, positiva, dà alla Francia maggior risalto nelle decisioni internazionali, ma come scrive Le Figaro, che riassume in una scheda tutti i pareri di opposizione e partito di governo, per esempio c'è Martine Aubry, che è la segretaria del Partito Socialista, che dice: io la trovo un atlantismo che diventa un'ideologia e quindi non mi piace, farò tutto quello che potrò per dire che io e il mio partito siamo contrari. Quindi è una decisione che, se vogliamo, in perfetto stile Sarkozy, e quindi in modo altrettanto atteso c'è la risposta dell'opposizione, che è negativa. Oggi abbiamo tempo di sfogliare con un po' più di calma con te i giornali stranieri, allora Giulia ne approfittiamo davvero. Wall Street Journal ci dà una notizia che è molto simile ad una questione di cui si è parlato anche in Italia nei giorni scorsi, vale a dire che con la crisi cambiano anche i pesi, diciamo così, dell'istruzione, delle lauree, dei master. Certo, nella sezione Money and Investing, quindi proprio quella dove si parla di come guadagnare i soldi o come investirli, il titolo è: gli studenti delle business school, di quelle naturalmente più quotate, più prestigiose, c'è un gioco di parole che dice: adesso hanno poco su cui contare. In realtà tu contare in inglese si può dire to bank on, bank naturalmente banca, il riferimento è al fatto che la loro istruzione in questo momento vale molto meno, è un investimento molto meno sicuro che soltanto qualche mese fa. Questo perché gli MBA vengono in generale valutati in base a quanto in fretta si trova lavoro dopo essere usciti dalle scuole e soprattutto qual è il salario di ingresso. Questi due parametri sono precipitati, naturalmente sappiamo, con tutti i licenziamenti che ci sono stati, soprattutto nei settori finanziari, non è più così scontato trovare un lavoro e naturalmente trovarlo a uno stipendio di entrata molto che fino a pochi mesi fa era una delle ragioni per le quali uno investiva in queste scuole, perché naturalmente è un investimento, costano, nella maggior parte dei casi costano moltissimo, quindi uno è disposto a fare questo investimento perché sa che gli renderà, e purtroppo non è più così in questo momento. Grazie a Giulia Crivelli, ti ritroviamo domani. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi, Anna Migliorati in studio, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. E io vi ricordo la mail, se volete scriverci, extralarge@radio24.it. L'appuntamento con tutte le notizie extra large di GR24, come sempre, domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.